Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Oggi Mohamed Mual ha 61 anni e gestisce un'attività commerciale a Torino, ma quando più di 30 anni fa ha lasciato il lavoro sicuro che aveva in Marocco per cercare maggior fortuna in Italia, si è trovato ad affrontare una realtà ben diversa da quella che aveva sognato. Quando sono venuto in Italia alla fine degli anni 70, ero uno dei tanti ragazzi ambiziosi che dal Marocco sentivano parlare dell'Italia come il sogno americano. Si diceva che in Italia c'erano grandi possibilità di lavoro, un buon guadagno che permetteva di fare abbastanza soldi per tornare al paese dignitosamente. Mai avrei immaginato quello che poi mi trovai davanti. Ho ancora l'immagine ben impressa. Tutti i miei connazionali con allacciata alle spalle una scatola di cartone con dentro accendini, orologi, batterie e altri piccoli accessori per girare in lungo e in largo la vecchia Torino e scoprire di far parte dei primi cosiddetti VCompra. A viaggiare con i ricordi e raccontarsi è un uomo che oggi ha 61 anni, uno dei primi marocchini arrivati a Torino, spinti dall'ambizione e dalla forza di volontà per cambiare in meglio la propria vita e quella della famiglia lasciata al paese d'origine. Tutti uomini e tutti giovani come lui, a quel tempo 26enne. Sono quei piccoli uomini che fanno parte di quella prima ondata di immigrazione marocchina verso l'Italia, che si avventurarono con pochi soldi, senza una conoscenza della lingua e soprattutto senza nessun appoggio nel paese di accoglienza, soli e con un solo sogno: cambiare. Sono proprio quei primi giovani che per arrangiarsi si inventarono un nuovo mestiere che avrebbe preso il nome del VCompra. Un mestiere che non avrebbero mai fatto al loro paese e del quale sono rimasti all'oscuro gli stessi familiari. Io in Marocco ho iniziato a lavorare a 13 anni per mantenere i miei 9 fratelli e anche se avevo uno stipendio molto basso, ero riuscito a conquistarmi un lavoro sicuro con un contratto da 4 anni e avevo appena comprato casa. Per me è stato uno shock, racconta. Mi aspettavo tutt'altro dall'Italia, ma non di caricarmi sulle spalle una scatola di cartone e girare per la città, con la speranza che qualcuno riuscisse a leggere la disperazione nei nostri occhi e avesse pietà e generosità per comprare qualche aggeggio in cambio di poche lire. Con altri ragazzi, continua, percorrevamo tutte le vie da Torino a Rivoli con l'autobus scendendo alle diverse fermate per tornare solo a tarda sera e a piedi, nel freddo di Torino, per noi completamente inaspettato, per raggiungere Porta Palazzo, nell'albergo dove dormivamo tutti. Perché una casa nessuno ce l'avrebbe affittata, così come nessun italiano voleva e poteva farci lavorare con sé, anche se ci aiutavano. Erano solidali con noi. Tuttavia era troppo rischioso per loro. Non si poteva. Non eravamo regolari e non c'era modo per venirci incontro. Avevamo dunque tutti solo quella possibilità per sopravvivere. Dalla disperazione ho pianto per diversi mesi, per la situazione nella quale mi ero ritrovato. Avevo lasciato un lavoro sicuro, mia moglie e mio figlio di appena un anno. Molti soffrivano quanto me perché eravamo soli. Avevamo lasciato le nostre famiglie. Non sapevamo quando le avremmo riviste. Chiamavamo una volta al mese. Era un distacco troppo forte e infatti più di qualcuno aveva mollato. Abbiamo fatto la colletta per aiutarlo a tornare a casa, ma io non potevo che resistere. Era un disastro tornare. Il lavoro sicuro non ce l'avevo più in Marocco e non l'avrei più trovato in quei tempi dove la povertà e la disoccupazione erano altissime. Dopo un anno riuscii a mettere da parte 120.000 lire e comprai la mia prima macchina, una Fiat 124. Ero l'unico del gruppo ad avere la patente. Iniziamo ad andare in gruppo in altre zone e mercati e per l'estate decidemmo di spostarci al mare perché c'era più gente. Andammo a Rimini e da lì iniziai a comprare e vendere articoli più corposi come lenzuola, asciugamani e coperte, così potevo avere più profitto. Facevo il giro della spiaggia, più di 10 chilometri a piedi con il caldo soffocante e la schiena che sentivo si sarebbe spezzata da un momento all'altro per il peso. Ma il più delle volte preferivo piazzare i miei articoli per terra, fuori dalla mia macchina, sul lungomare, e vendere da lì. Non mi piaceva la sensazione di dover scocciare la gente in spiaggia che prendeva il sole. È il 1982, da VCompra ad ambulante senza licenza, La scatola di cartone è ormai lasciata alle spalle. Arriva anche la moglie, lasciando 3 figli dai nonni. Troppo piccoli e troppo dura la vita per un paese che ancora non si conosce abbastanza e in cui non si è ancora riconosciuti. E la regolarizzazione, infatti, arriva solo nel 1986, anno in cui viene varata la prima legge in materia di immigrazione. Da lì è tutto un progresso, un lavoro regolare, il ricongiungimento nel 1990 dei figli, la stabilità, la casa e l'ambizione che si concretizza in realtà. È il 2010. Il 61enne, che per un anno ha fatto il Vucumpra nei lontani anni 70, oggi ha un'attività commerciale con la figlia. Vendono biancheria per la casa. A vederlo oggi, nessuno potrebbe credere che quest'uomo abbia passato quel che ha passato, pur se qui ne ha raccontato solo una minima parte. E io stessa mi meravigliai, perché l'uomo di cui vi ho raccontato la storia si chiama Mawal Mohamed ed è mio padre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Karima Mual, Il Vucumpra e la voglia di cambiare, dal Sole 24 Ore del 22 luglio. Ha scatenato polemiche in tutta Europa la recente legge francese che vieta l'uso del burka nei luoghi pubblici. Ma le donne che passeggiano per le nostre città coperte da veli o burka rappresentano uno spettacolo di schiavismo tollerato dai nostri intellettuali e politici in nome di un amore diffuso per tutto ciò che è straniero. Ad affermarlo è una rappresentante storica del femminismo. Alice Schwarzer, rappresentante storica del movimento femminista tedesco, lo va dicendo da anni che il burka e il niqab non c'entrano nulla con la religione. Sono strumenti politici, vessilli dell'ideologia fondamentalista islamica. La prima denuncia contro il regime dei mullah la fece dalle pagine della sua rivista, Emma, di ritorno da un viaggio in Iran, dove si era recata 2 settimane dopo l'avvento al potere dell'Ayatollah Khomeini. Definì allora e continua a definire oggi il regime iraniano un regime nazista. Ora, a quel bersaglio che non ha mai smesso di attaccare, ne ha aggiunto un altro. Dalle pagine della Frankfurter Allgemeine, la Schwarzer ha lanciato una dura invettiva contro la sinistra cosiddetta democratica. L'occasione è stata la legge che vieta il burka e il niqab in Francia. Entrata in vigore giustamente il 14 luglio, sottolinea Schwarzer, giorno nel quale la rivoluzione francese decretava la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza per tutta l'umanità. Io ci aggiungerei anche la parola sorellanza, dice, sentimento del quale questo mondo occidentale ha disperatamente bisogno. L'attenzione della femminista si concentra anche sulle occidentali convertite. Scrive che in Francia una musulmana su 3 è una convertita e a loro i martiri devono l'ottenimento della cittadinanza. Cosa è successo a queste donne cresciute in paesi dove le loro antenate hanno duramente combattuto per la parità? A muovere queste donne sono soprattutto la paura della libertà e della responsabilità, ma anche un masochismo tutto femminile. Ancora più inquietante è la capacità della società occidentale a far finta di non vedere. In Germania, quasi tutti i mass media hanno scritto, con una certa supponenza, del dibattito sul velo condotto in Francia e della battaglia per imporne il divieto. Ci si chiedeva: i francesi non hanno altro a cui pensare? Quasi a dire, alcuni l'hanno anche scritto, noi questo problema non ce l'abbiamo. Affermazione che mi lascia basita. È da molto tempo che ogni volta che passeggio per il centro di Colonia vedo almeno 2 o 3 di queste donne imbacuccate dalla testa ai piedi, fagotti che corrono dietro ai loro maschi vestiti casual con jeans e camicia alla moda. Ditemi, per quanto tempo vogliamo ancora far finta di non vedere questo spettacolo di vero schiavismo? Schwarzer ce l'ha soprattutto con organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International, secondo le quali vietare il burka finisce per stigmatizzare chi lo porta e calpestare i diritti umani. E ancora con i rappresentanti della sinistra europea, come la socialista Martine Aubry, convinta che con i divieti non si fa che aumentare l'isolamento di queste donne, come se potesse essere ancora più isolata di quel che non è già la donna sotto il burka. È un tipo di paternalismo, scrive Schwarzer, non nuovo nella sinistra europea, mentre stupisce che proprio questa sinistra abbia lasciato completamente in mano alla destra, ai conservatori e anche ai populisti, la lotta contro l'islamizzazione. I motivi di questo amore della sinistra per tutto ciò che è straniero, un amore che può essere visto anche come l'altra faccia della xenofobia, sembrano molteplici. Vanno dall'indifferenza assoluta e dai sensi di colpa fino a una discriminazione di base, propria ai nipotini di Michel Foucault e Claude Lévi-Strauss. perché proprio questi circoli hanno festeggiato a lungo l'offensiva dell'islamismo come rivoluzione del popolo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Faticati, Alice e il Burka, dal Foglio del 21 luglio. A 3 anni dall'inizio della crisi non si avverte ancora una fiducia nel futuro. Quali sono le ragioni? Il 30 luglio 2007 la banca tedesca IKB annunciava una caduta dei profitti causa le perdite sui mutui subprime. Già il 5 marzo il colosso inglese HSBC aveva dichiarato sofferenze nei prestiti immobiliari alla clientela peggiore e il 22 giugno l'americana Bear Stearns aveva lasciato al suo destino un suo hedge fund. Erano le prime scosse del lungo terremoto finanziario che avrebbe fatto tremare il mondo. Sono passati 3 anni, ma la crisi dell'Occidente non può dirsi superata. Il prodotto interno lordo non cala più, ma non si avverte fiducia nel futuro. 2 le ragioni principali. A. La risalita è assai lenta. In Italia ci vorranno 5 o 6 anni per tornare al 2007 e molti di più per raggiungere i valori che sarebbero stati possibili con la nostra vecchia crescita stenta, come la chiama il governatore Draghi. E soprattutto è incerta. Un'altra recessione può sempre colpire le economie se non si attenuano gli squilibri globali tra paesi poveri e risparmiatori e paesi ricchi e indebitati. B. I governi non riescono a trovare un accordo per riformare la finanza globale, che ha provocato lo sconquasso, e così i vecchi andazzi sono ripresi, soprattutto nell'investment banking. Questo secondo punto è forse il più importante. La finanza globale, locomotiva dei paesi avanzati, si basa sull'indebitamento delle imprese per esaltare il rendimento del capitale azionario e sull'indebitamento delle famiglie per alimentare consumi altrimenti impossibili, con la stagnazione dei salari determinata dalla concorrenza asiatica. È stato così possibile a banchieri, manager e grandi capitalisti accumulare ingenti guadagni, anche senza avere il cervello di un Bill Gates. I governi potranno dire di aver riformato la finanza globale se il suo peso nell'economia sarà sensibilmente ridotto e con esso il rischio che il contribuente, verrebbe voglia di dire pantalone, debba pagare un'altra volta le avide follie di prossimi Master of the Universe. Ma dove sono questi governi? Travasare debito privato nel debito pubblico può funzionare nell'ora del disastro, ma poi sono le obbligazioni governative a soffrire. Vedi Grecia. Dunque si dovrebbe ridimensionare l'intero debito, pubblico e privato, per avere una crescita più sana, ancorché più contenuta. Ma per una tale operazione ci vorrebbero governi capaci di parlarsi tra loro e al tempo stesso di varare quella che Ugo La Malfa chiamava la politica dei redditi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Mucchetti, La crisi compie 3 anni, da 7, numero 29, del 22 luglio.